fare una prova ricezione lì dove ci troviamo noi. Ho portato l'antenna multibanda regolata per i 40 metri e avevo il game mode in macchina. A ricevere riceveva, però non ho un paragone da fare, per esempio, con l'antenna della Echo per i 40 metri, ecco, non ho un termine di paragone, capito? Praticamente con la Echo antenna riceve finito. Non lo so quello, perché non l'ho mai avuta. Allora l'ho portata in valigia, messo un valigione, messo tra due cuscini piatti in modo da ammortizzare. Sono arrivato lì, ho montato l'antenna, prima ho montato il ricevitore, lo scanner, no? Però prendevo un bel immondezza di radio, del radio AM, no? Perché viene saturato completamente dalle radio. Poi quando nessuno guardava, non passava nessuno, ho tolto quello, l'ho messo sul sedile, ho attaccato l'antenna e sui 7 MHz riceveva, i segnali vanno 9, 9, 10, perché in macchina, cosa vuoi, non è l'antenna di su, però riceveva. E vabbè, comunque anch'io ero un po' sul chi va là, bisogna vedere, bisogna stare attenti. Portare fuori casa non fa. È un rischio grosso. Comunque era senza microfono, o meglio, il microfono c'era ma era nel cofano. Ma non vuol dire, l'apparecchio se il ricettore si distesse è sempre quello del valore. Deve essere stato un ricettore basso. Per legge, poi c'è quello che ci mette il tappo, poi il tappo con questo apertore deve mettere il microfono, non vuol dire nulla. Capito? Quando è solo ricevitore invece poi solo riceve. E vabbè, ma se guardiamo che cosa facciamo da Giulio. Beh sì, in effetti è vero, no? Quello è sempre un rischio indubbiamente, però io sono sempre dell'idea, se uno fa la persona seria, non ha da temere più di tanto, capito? Perché a casa uno può tenere interessante e non utilizzarlo, poi naturalmente se uno se lo porta in giro o se glielo attaccano come lo trovano collegato, il discorso può anche cambiare, certo. Però è come un po' che so io, il fucile, no? Uno si compra il fucile, si compra, se lo tiene a casa. Tu magari hai il porto d'armi, però a casa tua ci sono altre persone che il porto d'armi non ce l'hanno, eppure il fucile lì è di casa, per dire no, interessante non utilizzarlo, io la penso in questo modo poi. E poi però chi va a fare la persona da specchi o Marco, indubbiamente è così, ma se uno si comporta bene, penso che nessuno abbia niente da dirle, capito Marco? Comunque ieri ho fatto un errore ad andare a quell'ora e vi dico perché. Prima vabbè stavo pranzando, io ho messo quello in ricezione dalle 5:15 alle 5:30 di sera e purtroppo lo skip si stava allungando, cioè i segnali italiani si stavano già abbassando e si stavano alzando quelli esteri, capito, dall'Europa e chissà da dove altro. A me interessava ricevere gli italiani e quell'ora lì non era adatta. Dovevo andare alle 2 di pomeriggio, sarebbe stato ottimale, capito? 2:30 di pomeriggio. Sì, diciamo che dopo le 6 più o meno, dipende dalle giornate, alle volte anche le 5:30, sì, la sera, anche alle 7, dipende, ripeto, dalle giornate. La pagazione sarà lunga, dunque allora si sentono gli stranieri, è vero. E vabbè, e poi magari subentrano gli 80 metri, capito? Alla grande. Ma è così, purtroppo è così. Però devi considerare che io penso che questa sia la frequenza più, diciamo, più dura nel corso della giornata, perché dalla mattina io la mattina l'accendo verso le 8 o 10, a volte anche prima delle 8, e c'è già la propagazione alla grande, c'è già il poi si offre, quindi parlano addirittura che avevano già fatto colazione, quell'altro che è riuscito a portare l'amico a quattro zampe e così via. Evidentemente la propagazione si apre la baretta presto e dura tutto il giorno fino a quell'ora, fino alle 6 e mezza, 7, a seconda dei giorni, perciò di più cosa si vuole pretendere, va benissimo così, avanti già. Così è. Vabbè Marco, comunque sono tutte sperimentazioni nuove. Sì, la curiosità più grande era quella, Gianni, sapere se quell'antenna per esempio era accordata anche in trasmissione. In teoria lo è, ma le stazionarie con la base magnetica sono alte, capito? Vabbè, era una curiosità mia comunque. E la base magnetica non è mai come l'antenna normale, questo si sa. Sì, poi in HF no, 40 metri, 80 metri non ne parliamo, 40 metri così, 20 metri ancora puoi fare con la base magnetica, ma poi perde molto, capito? Sappaga. E beh, apparecchi, vedi, non ne hai visto Marco? Sempre i soliti, dai. Ecco, ma io su Kenwood poi qualche kit da costruire, sempre ricevitori, però a me sarebbe piaciuto parecchio come ricevitore HF, non uno scanner, ricevitore HF, l'R5000 della Kenwood, però chi ce la se lo tiene, e anche se lo trovi te lo danno, siccome ce ne sono pochi, è una cifra abbastanza alta. Quello me lo sarei portato anche in macchina, il ricevitore. Per quello lo puoi portare. Il Kenwood R5000, bellissimo, guarda, bellissimo, a trovarne. Mi pare che quello sia da Roberto Quadrato, se non è. Ma non è molla, no? No, se ne dà. Anche fare i cazzi. Allora, prima la Kenwood faceva anche ricevitori, la Yaesu faceva anche ricevitori, però c'era R5000, ma era secondo me a livello di scanner. Quello della Kenwood è lo, non ne fanno più ricevitori, ma lo sai, non so perché. A me piacciono molto quelli da stazione a base, invece di suoi. Ne ho visto uno a casa di un amico l'altro giorno e mi è piaciuto, benino. Sembra un ricevitore, manca solo il microfono e basta, c'ha tutto, c'ha smitter, c'ha tutto quanto. Vedi la ricezione dei segnali? Allora io ho avuto un FR50B, quelli anni 70, no? FR50B, riceveva anche bene persino con l'antenna di casa tanti anni fa, però io lo trattavo come la cacca, capito, no? Non mi interessava e l'ho regalato, mai l'avessi fatto, porca miseria. E me lo ricordo pure quelle che ricevisco. E vabbè, io ho avuto, guarda, quello più bello che ho avuto è un portatile che si chiamava Ufficino, costava allora 1.500.000 lire. Brecco. Avanti. Ufficino si chiamava, no Ufficino, Ufficino. Ufficino si chiamava, se non riconosco nemmeno quello lì, non c'eri nemmeno fra questo. Che anni erano? Anni 70-75. Ma più o meno l'avevo abbandonato. E pianto. Ma quello che c'è tu lo usi, ricevito? No, infatti sto aspettando che mi faccia un'offerta buona e te lo porti via. Me, Marco, provate. Ehi, ciao Antonio, stavamo parlando di ricevitori, che prima la Kenwood faceva le 5000, che era bello, anche la Yaesu faceva qualcosa, poi dopo gli scanner non fanno più niente, non è l'epoca dei ricevitori, no? A trovare un R5000 della Kenwood a un prezzo abbordabile sarebbe stato il massimo. Guarda, questo qua è un FRG 100 della IAESO, guarda per un attimino su Google immagini. È più tardi, adesso è tutto spento. Cosa siamo qua, lo stato brado. FRG 100, io ho avuto un FR50B, quelli con manopolone, il graduato, no? Solo che lo trattavo quando ero piccolo, quando ero ragazzino, lo trattavo come se fosse cacca, cioè non mi interessava, e ve l'ho regalato, mai l'avessi regalato, guarda. No, questo è bellino, non è male, è un po' come può essere un... è grande, nel senso che ha le dimensioni di un 140. E come dicevi, è abbastanza sensibile o un poco soffio? No, anche troppo sensibile. Quindi in macchina va bene. Io ho quell'antenna multibanda, ripeto. Non sarebbe male, non me lo metto sul sedile a fianco, che me ne frega, gli metto anche la cintura. Ma guarda che questa è una HF però, ricevitore HF, e io ho l'antenna multibanda HF. E allora è il tuo. È il tuo, io sono, io mi sono speso tutto, niente, e gliene passerà di tempo ancora, devo aspettare aprile. Vediamo, comunque c'è Giulio in parcheggio, lo rilanciamo. Avanti Giulio, cosa ne pensi tu? Cosa ne penso? Che sicuramente è un buon apparecchio, indubbiamente c'è altro. E dopo mi ripeti la sigla, se lo guardo qua, ho il tablet a portata di mano e voglio vedere com'è il ricevitore che hai tu. Va benissimo. Sì, beh certo, tutto è bello avere, quando uno se lo può permettere, giustamente è meglio che compri, no? Perché se uno non compra non ce l'avrà mai, dunque a questo punto se uno vuole avere deve anche sacrificarsi in qualche maniera, almeno a livello monetario. Vabbè, riprendi altro. E capo, ciao Giulio, scusami, non ho fatto abbastanza radioascolto. Avevo la radio accesa e ho sentito Gianni. Mi hai sentito anche a te. La sigla è IAESU Foxtrot Romeo Golf FRG 100. Bellino come cosa. Ti dico la verità, io non lo sto usando poco perché di HF poco serve a fare radioascolto, bene o male, quindi cioè almeno per me. Quindi faccio prima a tenermi questo 728 più il lote 50 con cui sto trasmettendo. Riprendi Gianni. Quella faccio la HF, quanto la stai dando? Quella HF, ma io veramente non sto vendendo niente. Diciamo che se tu sei nella condizione di farmi un prezzo interessante, io sono nella condizione di venderti. Ah, vabbè, non conosco il valore. A dirti la verità neanch'io, però parliamone. No, sono andato adesso a vederlo, ma non sono entrato nemmeno in internet, ci credi? In che senso, come fai a vederlo se non sei entrato in internet? Aspetta che prendo il tablet. Non ho capito come hai fatto, no? Come hai fatto a vederlo? Sono andato sulla fotografia che ti ho fatto e l'ho guardato. Ma se vuoi te ne mando una ancora più definita, aspetta un attimo, te la faccio e te la mando, dai. Ma io sono il condizionista anche su Instagram, no? Ce l'avevo qua, c'era la tira, la faccio. Scusate che non abbassa un attimo. Marco, è ottimale. Io ho la foto, se la vuoi vedere te la faccio vedere. Mi sto accendendo il tablet già. Io conoscevo a suo tempo l'FRG 9600, se non sto sbagliando. Credo fosse un ricevitore sempre. Sai cos'è? A me piaceva molto l'R5000 perché è uguale al Kenwood 440. Però riceve solo, non ne trovi però. Oppure se lo trovi te lo danno a caro prezzo. Ma io pensavo, possibile che lo vendano di più del ricevitore? E alla R 3000, 2000, 4000, ce n'erano fatissimi di ricevitori belli prima. Ah, è vero che mi fai spiamo, R 3000, 4000, eccetera. Quelli che dovrebbe ricevitori, sono i migliori forse. Conosco già, ci sono attualmente, però mi sa troppo di scanner. Boh. Piace proprio il ricevitore base, bello teccio, bello classico ricevitore, che si passa solo HF, perché gli altri poi fanno tutto, fanno da 0 a 3000 MHz per dire. Guardati questo qua, che buone idee. Ma scusa, l'HF non puoi usare il 140 per ascoltare, scriva se ti disturbo. Come Gianni? Ho detto, non puoi ascoltare, gli sono stato molto bene. HF. C'è stato un vecchio, mi sembra, avanti. Positivo, buongiorno, guarda, Massimiliano Bulgore, la questa. Buongiorno a tutti, non è che sto facendo un altro ascolto, l'ho acceso adesso, ho sentito, sono entrato a salutare. Ciao Massimiliano, presidente anche a te, buongiorno, in compagnia di Giulio, Lollaro, e poi Di Marco, Antonio Rodde e Gianni Piero, va là. Positivo, saluto a tutti così non mi dimentico nessuno. Ok, va bene, avanti Giulio. Ok, ciao Massimiliano, ben ascoltato. Ultima modulazione, sarà grande. C'è Antonio Colombe che te lo mando avanti. Avanti Antonio. Ciao Massimiliano, ben sentito dopo tanto. E ben ascoltato. Avanti Marco. Ciao Bulldozer, ben entrato. Rilancio Gianni. Già, sai perché? Ma io voglio ascoltare anche in veicolare con l'antenna multibanda. Avanti Gianni. Io sono capito, Ma poi passa anche in casa, non è che è bello per quello. Massimiliano, tu ne hai ricevuto in base? No, negativo, io ne ho grande, però non è un ricevitore, no. Diciamo così, ti ascolto un po' a tre parti. Va. No, perché Marco è affascinato questi ricevitori, diciamo, base, piacciono anche a me, però in HF non ne avevo fatto l'utilità io, più che altro di scanner che vanno tutte le parti. Senti, io c'ho il 767 il Waze, non so se lo conosci già, è a livelli di 140, poi un quadro di bando, va. Sì, lo conosco, e a voi lo conosco, l'ho visto anche da vicino, rimane piccolo con la mappa grande, sto fottendo estraiti. No, ti stai sbagliando Gianni, ho detto il Yaesu, il 767, è grande quanto il 440. No, 747 stavo pensando. No, stavo sbagliando io. Sì, va bene, va bene, ma tanto l'ascolto già si può fare lo stesso, ma non c'è niente interessante, no? Cacini, quindi no, non c'è niente interessante. Vabbè, la prima qui è un carraggio, là, un 140, come sta andando la modulazione? Alla grande, ma che microfono hai? 85, chi su carraggio che conoscete tu, vento, capito? No, bene, sta andando benissimo. Se viene avanti ti do anche un rapporto di segnale. Positivo. Oh, io penso, se non vanno 20 watt, vedo un po'. 920 radio 5. Ok, dai, riprendi Giulio, perché l'antenna, che cade un radio, così mi dato un rapporto da una all'altra, lui mi dato la differenza. Avanti giù. Ok, ma ti vediamo. D'accordo, perfetto. So che ci sia tu, mi dai anche a me un segnale per cortesia, vediamo come sto uscendo in questo momento. Avanti anche tu. 920, a picchi di 925, 930, radio 5. Visto che facendo la torre di controllo davanti a me. Sì, tra i 15 e i 20 con Radio 5, amplificata con Eco. Ma, sono in macchina, tu, mi sono fermato, ma oggi è una giornata uggiosa, mi prende la paranoia proprio questa giornata così. Ieri mi sono lavato la macchina, ma proprio fatta a pennello proprio, ho messo tutto quanto nelle gomme e mi sono messo a piovere, non me l'ha fatta godere, manco 5 minuti. Vabbè, sempre Massimo Mondone, vedi un po', tu, fai una gentilezza, non ha un rapporto di questa. No, negativo, qua sì, 9.20 come segnale, però c'hai un'alternata che ti stai portando dietro con Radio Satura e Cupa. No, no, no, aspetta, aspetta, ora è troppo sollevato, non mi ha suonato. Com'è adesso? Va meglio? Ha migliorato la radio, ma c'hai sempre un'alternata sotto. Un'alternata? Grappa, alternata, rumore d'alternata. Chiedo conferma a Giulio. Sì, sì, io la sento quando lui smette di modulare, io la sento, c'è meglio l'alternata, dai. Ho aumentato anche il volume per ascoltarla meglio, e in effetti c'è, però io quando tu moduli me la copre, cioè me la copre l'alternata, io sento più la modulazione e l'alternata è palissima, ma siamo vicino, dunque non fa testo il controllo da parte mia, non è che fa testo, capito Massimiliano? Vabbè, no, me la stavo usando ieri sera, quando c'è 6-7. Ok, nei momenti di pausa, no? Se si sente, c'è un'alternata, in effetti così. Va bene, avanti Gianni. Un attimo, sto controllando il telefono. Vabbè, comunque lascia per questa alternata, come timbrica, come radio, va bene. Prima era un po' cupo, adesso ha migliorato, sì, va benissimo. Ripeto, se riesce a eliminarlo, che non sia qualche falso contatto. Non so cosa bisogna farci qua, ancora. Sono da poco, non avevo studiato, l'ho capito. Capa, ma che apparato è? 767. 767, non lo conosco. Ebbene, Marco, te lo sei visto? Ce l'ho qua, è più moderno del 5000, questo display LCD Ambra, attenuatore 6-12 dB, sì, non è male. È bellino, ma ti ripeto, poi non è che sia in vendita, esclusivamente se è buon prezzo, se mi fai una buona offerta, assolutamente, poi è nuovo, questo qua è decisamente nuovo, non ha, forse c'è un, neanche, dico forse c'è un graffietto, ma trascurabile che non si vede. Ecco, e io non ho nemmeno idea di quanto possa essere, quale possa essere la valutazione di questo, di che a noi lo sai più o meno. Negativo. La valutazione è intorno ai 1.000-1.500 euro. Sì, manco nuovo. Ah, che sto scherzando, non lo so, non a dirti la verità, guarda. Se mi fai un'offerta ci mettiamo d'accordo e non c'è problema. Appena più soldi a tu, che mi sono salassato con baracchini e accordatori. Ma io solo per fare tutto, se facciamo una spara. Chi era? Guardate, mi mettiamo, se ti metti la chiave. Chi è che ha detto l'affare te lo faccio fare subito? Non ho copiato bene la modulazione. Io ero, a Marco gli ho detto, se i soldi ce li hai subito, se facciamo un affare. No, già, sono a terra per il momento. Ci devo pensare prima. Cappa. Tanto io c'ho un viaggio di lettale, non so se è giardino, no? Non lo so se, in cambio a merda, adesso vedo se lo do. Secondo la quantità vale di più anche. Infatti. Ecco, ripeti mi la sigla per cortesia, perché il tablet non c'è la batteria e dunque non l'ho potuto accendere. Ripeti mi la sigla per cortesia, che dopo me lo guardo al computer anziché al tablet. Ok? È uno Yaesu Foxtrot Romeo Golf 100. quindi FRG100 IAESO. Ok, grazie, adesso me lo sono anche scritto in modo che così non me lo dimentico, dopo quando scendo giù nel salone me lo guardo al computer. Ok, ok. Allora, Massimiliano, non ci credo che secondo la quantità del letame vale molto ma molto di più di una trazione intera. Il letame mi sembra che va intorno ai 15-20 euro a quintale. Ma come diceva qualcuno, vale più il letame che raccoglio che i diamanti, perché almeno dal letame nascono i fiori, dai diamanti manco quello. Positivo, positivo, proprio così, va bene, va. Comunque là sono ritornato con Lucio Garraggio. Comunque questo ce lo vedi, dai, anche quello forse qualche numero può interessare. Che non lo conosco, adesso me lo guardo, mi hai detto io un 767 della IAESU. No, beh, quello non lo vedo, no, questo 140, quello non lo vedo. Ma l'hanno appena regalato, capito? L'hanno dato ieri, con microfono MD1. Ma è un amico conosciuto. Come? Chi te l'ha regalato, un amico conosciuto? Adesso chiedo, c'era qualcuno forse se lo voleva prendere, ma quanto ne vuoi? No, io non lo do, ho detto, me l'hanno regalato e me lo do. Ah, allora non ho capito cosa stai, le cose che stavi vendendo. Ma va bene, questo è un carraggio di 140, il Cagliariola, questa specie di trattore, dove te lo chiamavo. E quello sto dicendo, quanto lo vuoi? Ma io ci mettiamo d'accordo, va. Quello che ti hanno regalato, così dice, ho capito al volo, Massimiliano, che è un amico, un vero amico. Vedi, quello è un vero amico. Beh, io l'avevo visto da, appena che lui ce l'aveva, là, diciamo, ce l'ha avuto. L'avevo visto al computer però, non in presenza mia così, al computer l'ho visto. Perché ne avevamo parlato già da tempo, un mese fa più o meno. Com'è la sigla, Massimiliano, che stanno a vederlo? Prego, un attimino per me. Ok, la sigla è 767 FTI AESU. AESU, FTI 767 GX. Praticamente è molto carino, c'ha tutto, diciamo, accordatore, filtri, marasucchi, va. Gianni? Che marca? Oh, Antonio ci sei, o Querix mi pare. Sì, è in Querix. Allora, ho aperto il primo forum che mi è capitato. Ci sono dei commenti impietosi sull'FRG100. Allora, questo dice, a suo tempo se ne parlava a suo tempo come mediocre, non ha la tastiera per l'emissione diretta delle frequenze. Poi uno dice, allora l'FRG100 l'ho sempre visto come un giocattolino. Poi 230 euro glielo volevano dare a uno, poi aspetta cosa dice, allora lascialo dove sta, in oltre 30 anni di radioascolto ne ho visti i ricevitori, mille volte meglio. Poi stop, la IAESU non ci si è persa troppo a fare i ricevitori, eccetera eccetera. Purtroppo dice che dall'FRG 8008 inizia il declino dei ricevitori IAESU. Ecco, vabbè, niente da fare. Giulio, allora io il viaggio del tavolo non glielo più. Ma cosa giri tenti? Ma cosa giri tenti? Certo. Ma Marco, sto dicendo, declino che hai in capo tu. Chi l'ha avuto, chi l'ha provato, chi ha avuto possibilità di provarlo, si esprime così. Che con antenne esterne si saturava abbastanza. Quando si parla di apparecchiature materiali bisogna sempre documentarsi come parlare. numero 1 la documenta, però può aprire la borsa. Ciao Claudio, ma io mi sto documentando e quello che leggo non mi piace su quel ricevitore. Dipende, se tu vai a prendere i ricevitori della IAESU, che fa il ricevitore a fare adesso, dimmi il nome, il cognome, il diritto, cos'è fatto, il Regino 2006, se è quello un ricevitore è meglio un paio di ciabatti, i ricevitori migliori sono quelli della ICOM e basta. Non c'è nessuna casa costruttrice che può battere la ICOM in eccezione. Allora, stavamo parlando dell'SRG100 IAESU. Lascia perdere. Stai parlando di un pacchetto di sigarette. Di quale ricevitore stai parlando? L'SRG100. Lascia perdere. SRG100, AOR, 2000, 3000, sì, ma lascia perdere, sono tutti giocati, capite? Giocati. I ricevitori partono da quelli della ICOM in su, capito? Ci sono ricevitori che costano 16.000 euro della ICOM, tipo l'ICR 9.000, l'ICR 7.000, l'ICR 8.000, l'ICR 6.500, l'ICR 5.000, l'ICR 3.000. Quanti di voi? Ma partono tutti, il più piccolo costa non meno di 2.500 euro. Stai parlando di scatole di sardine che ricevono, ti danno la possibilità di ricevere, ma che affidabilità hai? Non hai nessuna affidabilità, non detto. Ah, vabbè dai, ho visto. Ascolta, è l'R5000 Kenwood. Bella fermata, chi è? È gente che non apprezza la verità, capito? È gente che non capisce un cazzo, gente che parla di amatorialità e non capisce un cazzo, capito? Gente che non sa manco di cosa sta parlando. Però è una bella la pernacchia. Alto, la moto. Ma tu con che cosa stai dicendo adesso? Gru Garraggio, ma lo 140? Sì, a positivo, è quello, è parlato. Non te l'ha più fatto quel difetto? No, niente, nulla. Hai visto? Quindi è come, più o meno stavo dicendo io, la posizione di quel avvoltoio che c'è lì va bene dove è messa, l'importante è non stare muovi, rimuovi e va bene. Ok, allora una volta tanto mi ho portato uno scatolone di radio di vintage, valvolare in ferro, non valvolare, transistorizzati, valvolare, non valvolare, adesso piano piano devo tutti mettere a posto e poi mi ritengo e mi rivendo. Sapete che non ha nessuno, proprio courier, svan, svin, svitol, bidoni, contro bidoni. Bella Parigi, cosa? Ciao Claudio, no, sto guardando l'FT767, è un bel apparecchio questo. No, ho capito, avete parlato in due già, cosa hai detto? Stavo guardando lo IAESU FT767 e dove sta Massimiliano, che è un bel apparecchio. 767, quello in banda, e che apparecchio è? 767, della IAESU. E ho detto, ma che... lo conosco, sto dicendo quadrimanda, e che apparecchio è? Un apparecchio di 30 anni fa, e cosa cambia? Dov'è l'affidabilità di quella che può essere l'attività amatoriale? Cosa ne fai di quella radio 27? Cosa ne fai? No, ma Massimiliano mi ha detto che c'era questo apparecchio, io sono andato a vederlo, non è che me ne faccio nulla, sono andato a vederlo e lì ho un bel apparecchio tutto lì, anche il 140 e tanti anni fa eppure l'ho trafitto. Ma 140 è una KF, quello è un quadribanda, quello è una radio che serve per fare attività amatoriale in VHF, in VHF 50 mega, basta. Poi a cosa cosa serve? Non serve niente. A cosa serve il 27? Sono andato perché serve a me, sono andato per vederlo perché Massimiliano mi ha detto che ce l'avrebbe, sono andato a vedere che apparecchio era perché non lo conoscevo. Quello l'ha comprato Sandro Tigre, quello di Sandro. Lo conosco perfettamente, l'ho anche avuto, non solo di conoscerlo, l'ho anche avuto, il funzionamento è per usare in banda laterale. Tutto lì. Ma che mi ha scarnacchiato prima? Non ho capito. Che non la sono persa, che stavo parlando con Walter. Non ho visto segnare è una musica che non ci piace tanto, freghiamoci, cosa stiamo qua stai a commentare adesso la pernacchia, appunto i dinni, se no è peggio. No, scusate, io mi devo allontanare dalla radio, dai, sono entrato un attimo così mi devo allontanare un secondo, arriva per la sorella. Ci sentiamo ragazzi, buona giornata, buon pranzo a tutti e tanto il coso è bello, va. Va bene, vi saluto cordialmente a tutti, ciao, buona giornata. Ciao, ciao, Massimiliano, sei stanco, vai, buona giornata anche a te e famiglia. Non si fanno le pennacchie. No, ma non solo la pernacchia, sta anche mettendo la portante. Va bene, siccome io non vi saluto, rimango in quel ricco se non è per fare altro. Ciao Massimiliano, c'è il cupo di modulazione comunque. Va bene, cerca di regolare qualcosa. Va bene, ciao a tutti, ci sentiamo, alle prossime, ciao Giulio. Ciao Massimiliano, ciao Claudio, sono un attimino io in altra frequenza, riuscendo subito. Che cupo là, non ho toccato nulla, Questo è sempre... un po' cupa, guarda che microfono stai usando, l'85 è positivo, quello lì un po' cupa rimane, tonalità sono buone ma rimane un po' cupa, ma niente di particolare, va bene lo stesso, abbastanza buono, ok, va bene Massimiliano, vedi se riesci a fare quello che hai detto, se no te ne dico, ciao, alla prossima. Ok, ciao, dai, buona giornata, ciao. Ok, ciao qua. Ciao Massimiliano, anche tu stai chiudendo Massimiliano? Sì, sto chiudendo, anche io è arrivata mia sorella, Valghero, e sto scendendo a salutarla. Ah, ok. Va bene, attendi pure. Siamo rimasti io e te, mi sembra, Gianni, perché anche Antonio Grotti mi sembra che è passato in stand-by anche lui, mi sembra. Così ho capito bene già. Ciao anche a te, Claudio. Buon pranzo, cosa lo farai? Buon continuo serata. Non mi sa che questa serata qua, perché la radio non si può stare, se tu vendeva. Eccomi, io sono qua, Oggi la giornata un pochino malotta, se continua a piovere a disco, allora siamo costretti veramente a rimanere a casa, o perlomeno se usciamo di casa in casa. D'altronde cosa vuoi fare? Se piove, piove, basta. Avanti Marco. Io ho parlato Gianni anche assieme, dimmi Gianni. Ho detto per stare rinchiusi da casa a casa, è meglio stare da casa propria. Cosa dice? È funditi Banuccia. No. Ma ne fa a casa in pigiama, oggi faccio il ciabattone. Comunque hai capito i commenti. L'hanno demolito. E poi è entrato Claudio e l'ha demolito del tutto quell'apparato. Ha già sentito. Deve essere che di quelli un po' diciamo comuni. Ma come vedete che è un bel apparato, io l'ho visto dal vero ed è bello. Gli ho fatto anche una fotografia. Ma no. Gianni, lo sai che io parlo schietto, l'FRG100 e l'FRG9006 sono stati nel periodo che l'IAESO si è messo a fare ricevitori una cosa luce, una perdita luce. Tu immagini che l'FRG9006, se non compravi il preamplificatore d'antenna in dotazione, non riceveva niente, nulla, zero. Che cazzo è il ricevitore? Boh, vabbè, comunque, e senti com'è sicuramente a me è piaciuto, però la funzionalità non la conoscevo, quindi non posso esprimermi su questo punto qua. Capo, chi l'ha provato lo sa. Claudio. Ma infatti io quando parlo parlo perché le cose le so, non mi piace a me rispondere o intervenire in discorsi quando non capisco di quello che sta parlando. La IAESO non ha mai fatto ricevitori in vita sua, ne ha fatto 2 o 3 e sono state delle perdite allucinanti. Gli unici ricevitori che vanno attualmente, che hanno mercato, sono quelli della ICOM e basta, non ci sono ricevitori che possono battere quelli della ICOM, punto. Ma a livello di un IC 7000, capito? Un IC 7000, ce ne sono tanti, ce ne sono tanti, ma non ci sono ricevitori che possono battere. La IAESO non ha mai fatto niente che possa aver dato sicurezza e affidabilità per la ricezione, nulla, vero. Claudio. Dimmi. Il discorso è nato da questo, che io avrei voluto un ricevitore HF tipo R5000 a Kenwood, per dire, che riceva anche come 140, ma va bene, e c'era Antonio che aveva l'FRG 9100. Ho guardato su internet, purtroppo è stato definito mediocre questo FRG 9100. Ti stavo già sagamando forte, non confondere con la setta. L'ICR 9100 costa 16.000 euro o marco, capito? Senza contare quelli della Kenwood del 5.000, 9.000 e così via. Ma sì, come Kenwood hanno fatto ricevitori, prima di fare trasmettitori facevano ricevitori, e già prima di essere Kenwood, già la Trio come casa costruttrice a livello mondiale era la numero uno assoluta come ricevitori. Non so se tu hai conosciuto il ricevitore a valvole della Trio, forse Giulio sì, quindi era già a livello mondiale. Ma quando tu parli di un FRG di un IC UCR 100, è un ricevitore che ti permette di ricevere da 0 a 30 e boh. Noi stiamo parlando di ricevitori che ricevono da 0 kHz a 3 giga, capito? Quindi già le cose cambiano, stiamo parlando di ricevitori, non di cose così fantastiche, tutto lì. Ecco perché io quando sento intervengo, perché mi sento di intervenire. Non te lo ricordi, Giulio, il ricevitore, il 9000, il primo 9000 che ha fatto la Trio a valvole, te lo ricordi tu? Sì. Sì che me lo ricordo, quello, se ricordo bene, c'era un amico che abitava prima a Villanova e poi si era trasferito, aspetta, a Coso, a Cremule si era trasferito, prima abitava a Villanova, non mi ricordo come si chiama, e poi si era trasferito a Cremule, si era trasferito, o Clan, non mi ricordo il nome comunque, tanti anni fa. Quello tu immagini che era il primo ricevitore che io ho conosciuto da Ernesto Toccai, Ernesto Toccai aveva quello lì, aveva il ricevitore quello lì per ascoltare HF, ok? Cosa che poi aveva anche Corsaro, cosa che poi aveva anche Francesco Brancaleone, tanta gente in quegli anni ce l'aveva pure Burroni, tanta gente in quegli anni usava quei ricevitori per far sì appunto di avere almeno il minimo di affidabilità sulla ricezione. Poi quando si parla di FRG 100 già mi dice giustamente, esteticamente a me piace, esteticamente quando una cosa piace, piace, però se poi andiamo all'uso è un bellissimo ricevitore senza un po' di dubbio, ma non è paragonabile a ricevitori di grandi stazze, perché quando tu hai un ricevitore da 0,30 non hai niente. Come invece l'ICR 7000 c'ha le HF, c'ha le VHF, arriva sino a 2 giga, quindi già hai un ricevitore, capito? Che il costo oggi di un ICR 7000 che ho avuto sino a qualche anno fa, o anche il 271 che è la copia, sempre dell'ICOM, cioè ricevitore trasmettitore V, perché hanno fatto il 271, il 1271 come vice trasmettitore, il 1271 per il 1200 e il GR7000 ad accoppiare la linea. Quindi quello è un ricevitore che ancora oggi attualmente sul mercato non lo paghi meno di 600-700 euro, capito? Però hai un ricevitore. Certamente sì. D'altronde se uno vuole una cosa come si deve spendere, perché se no nisba. Sì, l'ho visto anch'io, ho attaccato l'alimentatore qui nel tablet per vedere quello che stavo dicendo poc'anzi, quello di Antonio Grote. Sì, diciamo che di figura può anche essere bellino a chi piace, però poi le prestazioni sicuramente saranno quelle che saranno, non lo so, io non lo conosco, però lo posso giudicare indubbiamente. Capito? Va bene, comunque Marco, se a te ti interessa, vedi un po' di fare l'affare, ti ha chiesto di fargli un'offerta, falla questa offerta, se ti conviene a te, conviene a lui, fate l'affare, no? Lui c'era Antonio. Sì, appunto, quando c'era Antonio e appunto e siccome Marco sta pensando adesso cosa lo faceva pagare eventualmente, ma era solo una domanda, niente di più, capito? Sì, lo conosco perfettamente, perché l'avevo già visto in altre occasioni a casa di un'altra persona, va bene, è un 030, quindi l'offerta può essere interessante, hai un ricevitore per ascoltare il 030, ma la mia domanda è questa: se hai il 140, di cosa ti fai un ricevitore da 0 a 30? Fatti un ricevitore che ti può coprire sino almeno a 2 giga, in modo che ascolti tutto, che ascolti 50 mega, che ascolti le V, che ascolti le U tranquillamente senza nessun problema. A cosa ti serve? Visto che ero per i baracchini, ti metti un tappo sul 140 e qui che c'è lo stesso ricevitore che ha l'ICR100, capito? Sì, no, ma il discorso era nato che magari l'intenzione di Marco era quello di portarlo in macchina, capito, per non rischiare niente, perché anche se metti un tappo su 140 è sempre un rischio portandolo in giro così, capito, mentre invece se hai il ricevitore nessuno ti può dire niente, hai la licenza d'ascolto e ciccia, capito, era solo quello il discorso qua. Allora, questo passaggio non l'ho sentito, io pensavo che lo dovessi usare a casa, hai capito? Va bene. Doppio room, allora. E mi rientrano, maestro, è una giornata uggiosa, ma se mi fa venire il malumore queste giornate qua, per carità. Me ne torno a casa e la tengo a casa. Giuro a Dio, fortunatamente sono a riposo, mi hanno chiamato il mio collega e c'è un casino che non ti dico, nella zona di Santa Maria Covina, Svale Doria, Vindalba, tutte quelle zone, però stamattina alle 7 che piove, senza nessuna interruzione, gli impianti stanno iniziando a andare in tilt, quindi io non sono libero, non sono niente, sono libero, però i colleghi mi chiamano ogni tanto, perciò domani si vedrà quello che c'è da fare, va bene. Stavo dicendo, una volta ho portato su una scatola di radio valvolari, due valvolari grossi e un Intec base, sono stato chiaro, in parte c'era anche un bello quadrato che sembra un HF. Allora questo è l'Intec B310-3104AF, è un bel base, 220. Dunque la base, no? Certo, vabbè, l'altro ne ha una marea di queste apparecchiature, quella ce l'aveva, doppio ce l'aveva quello. A proposito, non ho mai dato niente, vuol dire che la radio sta andando bene, confermi? Assolutamente sì. Sì, doppio. Ma diciamo questi valvolari tipo il Comstat, così, tutti in acciaio, tomati, eccetera, se li metto. Inizio a smontarli, a pulirli, a farli diciamo un po' più decenti, poi li metto a disposizione. Non qua, comunque. Vedo per sistemarli. Va bene. Ok, Grote, ci sei? Antonio. Non c'è Antonio. È staccato per un momento, poi gli aveva detto, poi non lo so se è all'ascolto. Boh. Vediamo un po'. Marco, ci sei sempre? Sì, no, prima sentito che era in quelli di Santorini. Capito Claudio? Siccome è un'antenna di multibanda, prese calcolate veicolari, ci sarebbe piaciuto avere un qualcosa tipo R5000 Kenwood per portare in macchina. Mi faccio una staffa, perché non è pensabile portarsi 140 in macchina, anche col tappo, lo sanno che è un trasmettitore, capito? Purtroppo l'R5000 non si trova, perché chi ce l'ha se lo tiene, e anche se lo trovi te lo fanno pagare come sangue, capito? Purtroppo per l'FRG 100 ho visto troppi commenti negativi. Io lo cerco, ma tu lo conosci bene il 5000? Sì, spero che lo conosci bene, perché molto probabilmente tu non lo conosci. Io lo conosco di forma e so che chi ce l'ha è contento, solo a KFE naturalmente. Guarda, a me se riceve come 140 è già grasso che cola, ripeto. E 5000? Beh, io lo conosci, lo conosci. Io l'ho avuto per più di un anno il 5000, e ti posso dire che forse come ricevitore, con tutto quello che è paragonabile a un IC7004 di ultima generazione, con DSP e Ballevare. No, ma sicuramente non lo conosci bene, perché forse nella macchina tua nel sedile non c'è strada. Sì, c'è stato il 140, Claudio. E cosa vuol mettere? 5000 o 140? Il è grande quanto l'850, forse anche più grande il 5000. L'ho avuto io. Ma scusa, il 5000 non è grande come il 440? Assolutamente no, assolutamente no, ti stai confondendo. Il 5000 è prima del 9000, tu immagini che il 9000 è grande quanto il Marche 5, quanto il 940, forse anche più grande. Capito? Il 5000 è leggermente più piccolo, leggermente, ma non di molto, leggermente più piccolo il 5000, tu stai confondendo. Se ti parlo del 5000 della Kenwood è grande, più grande dell'850. Epa, e allora no, è troppo grande. Purtroppo con lo scanner è impensabile ascoltare. Con VR500 è una porcheria, senti la radio AM, proprio non esiste. Il Kenwood ancora riceve, con l'antenna, con la banda giusta riceve. Niente da dire, riceve bene, poco QRM. Aspetta un attimo, c'è un Walter sotto, volevo portare dei bulloni che si era dimenticato. Scappa un attimo, io controllo internet, avanti Giulio. Ok. Sì. Sai cos'è Marco? Il discorso è che anche per ascoltare molto bene ci vogliono anche le antenne giuste, ci vogliono. Perché anche se uno può sentire, però se non è l'antenna appropriata per le determinate frequenze, c'è sempre un qualcosa manca, capito? Io la penso così, perché anche l'ascolto ha bisogno di un'antenna che risuoni perfettamente, in modo che non ti crei frusci, che non ti crei disturbi di nessun genere, quello è importante. Poi c'è da considerare anche, tu adesso quando ascolti, poi ti ascolti con una verticale, la verticale è rumorosissima, lo sappiamo, ci vorrebbero dei dipoli adatti, proprio fatti apposta, accordati come si deve, proprio per avere la massima sensibilità nel ricevitore, e questo anche nel trasmettitore, chiaramente. Vabbè, dai, riprendi Gianni, ci sei, sì. Gianni, non c'è. Voglio fare una chiamata se c'è ancora K2 in ascolto. K2, ci sei? Sì, Giulio, mi sto sempre ascoltando, Prendete pure. In questo momento mi sa che sono rimasto solo, perché Claudio è impegnato, forse al telefono, mentre invece Marco sicuramente ha da fare a casa. Gianni non risponde, perché faccio la chiamata a Gianni. Gianni? Ecco. Avanti Becco. Ciao Giulio, buongiorno, salutoni. Ciao anche gli amici su questo canale, K2. Ciao Gianni Capri2, ben ascoltato. Io al momento sono in stand by tutti, perché evidentemente hanno da fare. c'è comunque anche K2 in ascolto, però andando avanti, avanti K2 per Gianni. Sì, ciao Gianni, ben sentito, metà di mano, riprendete, riprendete già, già. Guarda, tra qualche minuto entro con il nuovo microfono, sto terminando di salvare l'ultimo contatto, poi gli metto la batteria perché è amplificato e poi farò l'ingresso, e riprendi Capri 2, ben sentito ancora. Forse non ti ha sentito, Capri 2, non l'ha sentito la K2? Proprio, c'è il terreno, non lo sento, prima però mi va la forte la giorno. Forse perché c'è quel REM oggi, oggi sta piovendo, sai, e ogni tanto c'è uno scruscio d'acqua, dunque a un certo momento disturba, può disturbare. No, sta lavorando, sta collegando un microfono e dunque tra un po' ce lo farà anche sentire come esce questo microfono. Sì, sì. Oh, K2, io ho adottato un sistema per fare sempre in fretta, sai cosa faccio io quando devo collegare qualche microfono? Prendo lo spinotto adatto per il baracchino, no? Prendo e ci saldo uno spezzone, per dire, con 4-5 file a secondo di cosa, di 5-6 anche, poi magari ne usi quelli che servono, e poi stacco il coso, lo spinotto dal microfono e li collego a mano, no? Così lo trovo all'istante, in 5 minuti trovo il collegamento giusto. Ho preso di carta, una penna, mi segno tutto e poi lo faccio altro che saldare direttamente, capito? O K2 come faccio? Ottimo sistema, io non so pensato, io sono rientrato, l'ho fatta più lunga. D'accordo. No, perché è la prima volta che faccio di questi lavori, quindi per me è tutto nuovo. E prima ho controllato le connessioni di questo microfono, ho montato tutto, ho visto i fili come erano messi e mi sono segnato tutto. Poi ho scollegato il microfono dell'attacco di questo amplificato, l'ho disaldato e adesso mi sto collegando tutto, mi manca l'ultimo contatto e vabbè, io ho interrotto tante volte per fare altro e comunque non è che ci sono, e adesso ho saldato l'ultimo contatto e adesso lo inserisco, però è un'ottima soluzione anche così, riprendi. Sì, sì, è una soluzione, diciamo, che aiuta molto, è veloce, così, ma io ne ho fatto tantissime ispezioni, soprattutto per tutti, perché io sono contrario a staccare lo spinotto originale da come è fatto il microfono, capito? E allora faccio lo spezzone, faccio, e dunque uso quello, così col microfono lo posso usare adattandolo sempre con uno spezzone, poi supplementare, lo adatto a diverse apparecchiature, tutto lì. È rientrato Claudio, avanti qua. Sì, Quasella, ciao. K2, buonasera, anzi buongiorno, buon ascoltato, buona domenica. Va bene, il discorso approfondito per quanto riguarda il 5000, Marco, e per quanto riguarda il CR100, stiamo parlando di un ricevitore HF, così, insomma, per ascoltare, ma se parliamo di alta professionalità lo siamo capiti. Va bene, Gianni è andato via, Giulio? Sì, Gianni non ha risposto, l'ho chiamato due volte e non ha risposto, lo richiamo di nuovo, vediamo un po'. Avanti Gianni, ci sei? No, non c'è qua. No, perché è macchina, capito? Evidentemente è sceso e è salito a casa, perché era sotto casa sua, era in quel momento. E dunque, no, ma Marco lo voleva solo per portarselo in macchina, ma giustamente, come hai detto tu, è una cosa grandissima, io l'ho visionato tante volte al computer, quel ricevitore, ma è una cosa enorme, poi è una cosa molto professionale, non ne vale la pena portarselo in macchina, ci mancherebbe. Ecco, giusto un giocattolino tipo quello, come appunto le ha detto, le ha diciamo, offerto non offerto, c'è stata non un fraintendimento, nel senso che Marco ha detto vorrei un ricevitore e cosa, Antonio ha detto io ce l'ho quello, fare l'offerta, dice vieni te lo prendi, tutto lì, ma era una cosa per portare le macchine, una cosa leggera naturalmente, infatti gli era anche ferato Antonio che era uno della 30, dunque una cosa HF, ma era solo per non portarsi 140 in macchina, capito, perché per non rischiare, soprattutto come persona di buon senso, per non rischiare appunto di farselo sequestrare trovando il ricevitore, il trasmettitore in macchina, tutto lì, o qua, era quello, il discorso era basato su quello, capito? Scusate Claudio. Sì, dimmi un attimo. Allora, io non so che apparato tu ricordi come era il 5000, adesso ti dico le differenze del 5000 dal database degli apparati Kenwood. Parola, l'R5000 è largo 27, alto 9,6 e profondo 27 cm. Il 140 è largo 27, alto 96, profondo 27. Quindi alle medesime dimensioni del 140. Sì. Marco, tu quando parli di 5000 devi specificare se un ICR 5000 lo fa la Kenwood, se il DS 5000, R 5000 lo fa la Kenwood, l'R 5000, l'ICR, IC sta come ICOM, l'ICR 5000 è uguale, preciso, identico come dimensioni, non al 140 ma a un 440 che è un pochino più grande. Ok, ma se tu parli di ICR 5000, se parli di R 5000, R 5000 lo fa la Kenwood, l'R senza l'IC lo fa la Kenwood, sono due cose diverse. L'R 5000 è nato prima dell'R 9000, del 9000 della Kenwood, che è di una dimensione allucinante, sia il 5000 che il 9000 sono dei barragioni, ma grandissimi, molto grandi. L'ICR 5000 è uscito prima dell'ICR 7000 della ICOM, parlo della ICOM, è grande quanto una HF normale, quindi di stazza 140, un pochino più grande, perché l'ICR 5000 e l'ICR 7000 sono gemelli di quello che io che è l'IC, l'IC 271E, che è il ricetrasmettitore della Kenwood, è gemello di questo, capito? Gemello, preciso, identico da linea, quindi stai attento, l'ICR 5000 è uguale come dimensione al 440, l'R 5000 e l'R 9000 che sono quasi gemelli, cambia totalmente il prezzo, perché uno costava intorno ai 4000 euro, il 9000, per fartelo capire a te, costa 16.000 euro e guardatelo, ce n'è uno su internet che ogni tanto lo mettono per far vedere, costa 16.000 euro, quindi vedi tu che cosa può essere come ricevitore. Ecco. Oia oia, non ci siamo capiti Claudio, R5000. Largo 27 cm, alto 9,6 e profondo 27, è uguale al 140. Gli ICOM li conosco benissimo, sono enormi. C'è un manuale qua, scusa. Guarda, non mi posso confondere perché io quello della Kenwood l'ho avuto ed è grandissimo il 5000, è grandissimo. Ho avuto anche l'ICR 5000, l'ICR 7000, IC però c'è scritto davanti, non R. L'R lo fa la Kenwood e l'IC lo fa la ICOM, quindi c'è un break Marco, comunque vedi tu, se per te è una cosa fattibile falla, io sono contentissimo che lo fai, però sappi che per poter ricevere come ricevitore da casa in macchina ci vogliono le antenne, altrimenti lo stai prendendo per niente. Avanti break. Sì, buongiorno Claudio, K2 col nuovo microfono qua, 73, ben sentito, Claudio Bip. Ben sentito anche te, Marco, salutone alla 30 di mano. Riprendi Claudio, dimmi come mi ascolti, cambio. Ok. Ok, lascio un attimo, ecco, perché c'è stato anche forse un altro break, mi pare che di cosa, non lo so. Sì, K2, ti ascolto benissimo, 5-9-10, il tuo segnale. Come radio ti posso dire che le tonalità sia medio alte che medio basse sono abbastanza precise, quindi ottimo microfono, ottima emissione, va bene, va benissimo per qua, per la 3x9, non ci sono problemi. A te ancora, fai girare per Giulio, vedi un po' Giulio se c'è un break. Sì, capa Claudio, ti ringrazio, questo è un microfono da tavolo, diciamo, e amplificato, che era attaccato alla linea dritta, solo che c'aveva lo spinotto, e quindi gli ho messo l'attacco a 4 pin e l'ho terminato adesso praticamente, quindi adesso lo devo chiudere perché è tutto ancora volante, lo sistemo bene e a questo punto abbiamo finito. Riprendi Giulio, dimmi tu come mi ascolti, capa di Rocci. Ok, confermo quello che ha detto Claudio, va benissimo, anzi devo dire che leggermente è anche più squillante dell'altro, secondo me è anche più bello, secondo il mio modo di ascoltare qua con questo K. C'è tanto sicuramente un break, vediamo un po' se viene avanti. Avanti un break? No, era solo un'interferenza. Capito K2, per me va bene, quel microfono va benissimo, chiaro, anzi è leggermente più, con una tonalità più squillante, più alta, diciamo, dell'altro. Capito? Perciò devo dire che fra i due preferisco questo che hai usato adesso ultimamente. Va bene, dai, chiudi tutto e poi ci sentiremo ancora. Avanti qua. Sì, Crossell, confermo, per me è un'ottima emissione, ripeto, sia medio alte che medio basse rispondono alla tua modulazione o K2, quindi va benissimo. Ok, a te Marco, riprendi, fai girare. K2, radio buona, confermo quello che hanno detto gli altri. Ok Marco, dai, sono contento, almeno ho recuperato un altro utile accessorio per la stazioncina qua che si sta componendo, e insomma è il microfono direttamente, quindi mi dispiaceva lasciarlo montato da una parte e sono contento di poterlo utilizzare con questo apparato. Tutto lì, sto parlando anche abbastanza lontano dal microfono perché c'ha le varie amplificazioni, arriva fino a 10, ma sono a 4 e sono comunque abbastanza lontano dal microfono, sarò una decina di centimetri. Ok, allora io per il momento quelli che si ascolto e vi chiamo dopo con un break per il rientro. Va bene, riprendi tu Claudio. Sì, QSL K2, arrivi benissimo, non ci sono problemi, vabbè sono di fronte a te, quindi emissione e segnale equivalgono forse la vicinanza. Tenendo conto che io sono a polarizzazione orizzontale e tu sia a polarizzazione verticale, perché io vado con una direttiva tre elementi per i 10 metri, accordata qua per la 3x9, quindi polarizzazione orizzontale a nord, puntata a nord, 0 gradi verso la Corsica. Quindi ti prendo di fianco, ma il segnale è abbastanza stabile, abbastanza buono. Va bene, Giulio per te. Ok, sì, va benissimo, non ci sono problemi. Sì, tornando al discorso ricevitore, Marco, non so se poc'anzi mi hai ascoltato quando ho detto che oltre al ricevitore ci vuole anche un'antenna che risuoni sempre su determinate frequenze per poter avere anche un ascolto perfetto, perché alle volte noi ascoltiamo con un'antenna che non è risonante nella frequenza in cui ascoltiamo, e allora ci può essere della sporcizia, diciamo, dai, e quello è molto ma molto importante, no? Me lo insegni, non c'è bisogno che te lo dica io, però lo sappiamo benissimo che l'antenna è fondamentale anche in ascolto, non solamente in trasmissione ma anche in ascolto, capito Marco? Pertanto stavo dicendo, sì, tu in macchina ti puoi mettere un ricevitore, quello che vuoi, però di volta in volta magari cambi frequenza o meglio cambi banda e non ti ritrovi l'antenna giusta e ascolto può essere anche un pochino precario, capito Marco? Quello che intendevo dire, te lo avevo detto poc'anzi ma forse ti era allontanato, non mi avevo ascoltato. Caffa Giulio, sì, vabbè, da casa sì, è ovvio, da casa ho un'antenna per la 27, però ripeto, in macchina ho un'antenna di quelle a prese calcolate, cioè li regoli col ponticello la banda che preferisci, 80, 40, 20, quella che vuoi tu, è risonante. Certo, essendo veicolare rende meno, ma almeno risuona. Naturalmente Claudio, io non lo faccio per screditarti, magari so che hai esperienza, quindi magari ricordarvi un altro modello, guarda, c'ho il manuale adesso qua, manuale d'uso, allora dimensioni in centimetri, 27 per 9,6 per 27, è come il 140, ti dirò di più, io quell'apparato l'avevo visto da Mario Notari in vetrina e me ne ero innamorato, certo non è piccolo perché mettere un 140 in macchina è un casino, non è un baracchino, ecco, si può mettere sul sedile, poi gli metto anche le cinture. Beh, così non si muove, io sono preso qua con questo radio vintage che già sto iniziando a aprirle, a farle, e vedere un pochino cosa mi salta fuori. Sì, ma può darsi anche che si apprendono a sbaglio io, ma per carità, però io mi ricordo sia la ICOM che la Kenwood hanno fatto la stessa sigla con le denominazioni diverse, quindi sia il 5000 che l'ha fatto la Kenwood e il 5000 l'ha fatto la ICOM, quindi sono sicuro che mi stia sbagliando io qui per ora, però io mi ricordo che quello che avevo io della ICOM e della Kenwood erano allucinanti, erano grandissimi, erano delle radio enormi, veramente molto molto grandi, quindi per quello che ho detto che sicuramente, però se c'è il manuale davanti, grazie, stia sbagliando io, ma poi mi vado a controllare perché io ho anche alcuni manuali vecchi, quindi voglio andare a controllare se praticamente è quello lì, ok, adesso vediamo se almeno una di queste riesco a farla accendere oggi intanto. Sera ci abbiamo la Juventus alle 8:30, perciò tutta la sera metto qua in sala radio a vedere se riesco a sistemarmi queste radio vecchiotte. Ieri ho fatto un lavoro a 140 Giulio, ma ho dovuto fare ieri, la settimana scorsa ho dovuto fare tutto a pezzi perché è partito praticamente il trasmettitore della 220. Fortunatamente ne avevo, c'era un collega che ne aveva uno e quindi me l'ha dato, io l'ho sostituito, altrimenti era veramente da buttare quella radio, un peccato. Lei quella che ti ho fatto sentire poi quando mi hai dato il controllo. Ok, no, stavo facendo benissimo ieri, hai fatto un buon lavoro, evidentemente hai fatto un buon lavoro perché io ti ascoltavo bene, con la tua radio solita, senza nessuna differenza, capito? Perciò andava bene così. Ok, dai. Ok, guarda, ci sentiamo stasera, ci sentiamo l'1 e un quarto, sicuramente adesso mi chiama mia moglie per il pranzo. Grazie per le due chiacchiere, ci sentiamo stasera eventualmente, è stata una giornata brutta, sicuramente non uscirò e anch'io stasera guarderò la partita della Juve, speriamo bene, speriamo che vinca e che lo sa. Boh. Vabbè, comunque sono contento anche dell'acquisto che ha fatto di Osvaldo, anche se quello è ha un pochino un carattere ribelle, comunque già lo sistemano alla Juve, già lo mettono a piombo, perché lì non si scherza, in quella società non si scherza. Ci sentiamo stasera ragazzi, dai, ciao Claudio, ciao Marco e ciao K2 che si è in ascolto sicuramente ancora, anzi ti lancio il microfono così ascolto il finalino di tutti e poi chiudo, avanti K2 se ci sia ancora, sì. Sì, ciao Giulio, buon QRT, buon pranzo e a più tardi allora, e penso che saremo in tanti stasera, vista la giornata lì. Va bene, buon frutto, vai Claudio. Sì, sì, questo è lei. Ciao Giulio, piacere mio, ti ho cercato l'altro giorno, ho fatto un po' qualche entrata così veloce con Marco, con Gianni. Infatti ti ho anche salutato perché era un po' tardi, ho detto anche saluto Giulio se l'ascolto, che lui sta sempre in agguato. E invece poi ho sentito che eri fuori zona, perciò non hai sentito il saluto. Ok, grazie alle due chiacchiere, a presto, se coincide ci sentiamo magari stasera. Avanti Marco. Ok, ciao Giulio, ciao K2, ciao Claudio, anch'io adesso vado a dirozzarmi, nel vero senso della parola, che sono ancora in pigiama. Ciao a tutti, ci sentiamo alle prossime. Ok, allora ti saluto, se mi hai salutato no, non ti ho potuto sentire perché non c'ero qua, mancavo una settimana e anche qualche giorno in più anche, dunque in turni. Ma ci sentiamo, dai, stasera ragazzi, dai. Buon pranzo anche a voi, alle prossime, ciao ciao, io chiudo, mi hanno già chiamato, mia figlia mi ha dato la voce dalla tavernetta e dunque è già pronto il pranzo, ci sentiamo, ciao. Ciao ciao a tutti, buon pranzo, alle prossime, ciao ciao. Ehi capa, riprendo io allora, ciao Claudio, ciao Marco, dopo pranzo se ci siete. Ci risentiremo sicuramente. Vai, ciao a tutti, anche io chiudo. Ciao ciao ciao. Ok, ciao ciao. Parlando di cose tecniche e di diciamo che si vede, si sente l'esperienza comunque. Quindi guarda, per me, se sento un tuo consiglio, io lo prendo alla lettera, poi gli altri ognuno fa quello che vuole. Comunque io la penso così. Certo, bisogna essere un po' competenti, capirne qualcosa prima di aprire la bocca. Infatti io non mi butto mai, perché su queste cose sono proprio all'oscuro di tutto, sto muovendo i primi passi nell'elettronica e insomma sono consapevole della difficoltà che c'è in ogni lavoro, su ogni apparato, una volta che apri gli apparati, quelli che sembrano anche fesserie richiedono massima attenzione e competenza. Riprendo. Beh, come tutte le cose d'altronde, l'esperienza uno se la fa sul campo, non con la bocca. Con la bocca siamo buoni tutti a parlare, è normale che sia così. Però uno sul campo poi dimostra di avere quelle poche capacità che servono, è chiaro che poi diventa una questione di fiducia anche nel dialogare. Va bene, mi chiamano per il pranzo, ti saluto, K2, io sto facendo solo delle prove qua in 3x9, perché sono riprese con questi baracchi, altrimenti continuo a fare la mia attività dove devo farla. Un po' di problemi sempre, anche nel chiacchierare devi stare molto attento, perché altrimenti ti distruggono. Va bene, ciao K2, ci sentiamo, stammi bene, Claudio Sparviero passa in QRT, alle prossime. Sì, Sparviero, ok, dai, alle prossime. Poi magari quando rientri ti dirò sulla tua radio, perché la sento sempre molto occupa, se è una questione di apparato oppure di amplificazione, un po' esasperato, diciamo. Non lo so, io non li uso baracchini, io sto andando con un TS430, sei il primo che mi dice questo. La mia modulazione è sempre così, bella rimbombante, bella da combattimento. Non uso baracchini, io baracchino no, sono un collezionista di radio antiche e basta, baracchini io non ne uso, uso linee Kenwood, linee Icom, linee Yaesu, tutto qua. Molto probabilmente la tua radio, nel ricevere un segnale forte, una radio forte, fa un po' in distorsione, ma niente di particolare. Va bene, non è un problema, intanto io sono sempre di passaggio qua, non è che frequento molto. Ci sentiamo, ciao, stanno bene, buona domenica, K2, alle prossime. Sì, ciao Claudio, buona domenica.